Salve, salve, qui è l'arte del tizio, detta anche sapori sulla spiaggia, con questo Arte del vizio. sapore, questo rumore di sottofondo. Sì, ce l'avrete tutta la sera, si sente male, sono solo le 7:43, siamo in E si ritardo sente già male. e si sente già male. Siete su Radio Wombat, maledetti e maledette voi, e niente, diamo la parola a questa musichella. Ce la finite così, come se niente fosse. Che bello, che bello. Allora, niente, va bene, ritorno qui... anch'io. Quando sono non riesco a parlare. Lo sappiamo, scusa. Lo sappiamo. Palmiro, benvenuto, benvenuto in studio. Grazie, grazie serio che abbiamo fatto questa sera. Veramente, io ho fatto veramente serio. Schifo. Grande, grande Tonino. Tonino ci è venuto a trovare da un posto lontanissimo con la sua Millennium Falcon. Come... Sì, soprattutto quante armi? Sì, abbiamo le tasche piene di armi. Frittole sta esplodendo stasera di gioia, di felicità, di presenze di coglionate. Soprattutto, sì, Tonino ci ha portato una strumentazione invidiabile. Proviamo a togliere il suo sottofondo marino. Oh, sentite che pace. Aspetta, ti do il microfono, non ti si sente. Per favore, presentati, che sei il nostro special guest della serata. Buonasera a tutti, sono Tonino. Ciao Tonino, Ciao, è un gran piacere averti qua a Frittole. Benvenuto su Radio Wombat. Grazie, vi ringrazio per avermi ospitato stasera. E niente, volevo iniziare questa puntata con una canzone per me molto significativa. Assolutamente, assolutamente sì. Se volete scriverci, fatelo a frittole@gattini.ninja. Palmiro, hai qualcosa da aggiungere? No, ancora no, ma se non volete più ascoltarci, potete cambiare modulazione di ampiezza, potete cambiare sito web, potete fare tutto quello che vi pare a parte ascoltarci, se non vi va più, ovviamente. Oppure se vi va ad ascoltarci, mettete sui 13.59 della M e anche basta. E smettete di ascoltarci. Comunque, come ben sapete, qui siamo all'Arte del Fiasco, l'Arte del Vizio, ed è venuto Tonino dalla lontanissima Emilia, precisamente possiamo dire il posto bruttissimo da cui viene. Non lo so se la sente. Possiamo dirlo. Il posto bruttissimo da dove, Tonino, da dove vieni? La zona geografica. Ma magari mettiamo il pezzo e poi lo intervistiamo, lo tocchiamo. Ok, ok. No, c'era questo silenzio, c'era questo vuoto. Ehi, Anna, ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, non ho parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, non ho parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Gli infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne soffa, meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti bands mi divido in tre. Le sono un minuto, cazzo fatto fra te. Fate gli zanzari, poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiudo in giro, dico che sei demente. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo. Ci chiamiamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse DM, non firmo TN, giuro che non pago con l'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri. Non ho più pensieri, tu fai meglio vieni. Spazzo via i problemi, troppo me la meni. Vogliono 6-0, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi. Quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco. Resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi supporti, ma vendo c'è la testa. Te le tue amiche, non ho messo la festa. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Totalmente sprovvisti, torniamo in onda senza alcun argomento, ma per fortuna siamo qua a chiacchierare del nulla ancora una volta, come ogni due domeniche. Facciamo finta di niente, facciamo finta di avere cose importantissime, improrogabili da fare, da dire, musica da far ascoltare, eppure questa domenica ci ha raggiunto, come abbiamo avuto già il piacere di dirvi, un ospite speciale, specialissimo. Questo è un certo Tonino, che ci ha apparecchiato ampiamente lo studio di Frittole Violenta stasera, un sacco di bottoni che si muovono, un sacco di aggeggi strani, assolutamente sì. È venuto a fare da sottofondo alle nostre cazzate, alla nostra proprio, sì, anche perché la nostra poco professionalità. Allora, il pezzo di prima mi è piaciuto tanto, okay. Devo essere sincero, Palmi, sei stato veramente bravo, e vorrei fare anche i complimenti a Tonino, anche se non se la sente di Tonino è stato super bravo. Io ora ho fatto un po' schifo, ma però questo è un giudizio personale. Smetto di fare autocritica. Vabbè, scusa, perché sei il solito. Va bene. Sei il solito. Allora, Tonino prima ci ha chiesto, ha detto intanto che non vuole parlare, e noi l'abbiamo accettata questa cosa, perché esatto, ovviamente ci deve fare da sottofondo. Esatto. Ci ha chiesto, regà, ma la conoscete qualche barzelletta? Io personalmente non sono una persona simpatica, privo di senso dell'umorismo, quindi al massimo possiamo cercare qualche barzelletta sul web, però non so se te, reverendo, allora io ce ne ho una. Conosci una barzelletta? Ce n'ho una. O i nostri spettatori conoscono una barzelletta? Sì, scriveteci assolutamente, scriveteci. Se avete una barzelletta. Intanto abbiamo ancora la speranza che ci scriviate qui. Sì, qua via posta, su, non mi ricordo mai l'indirizzo, scusami, reverendo. frittole@gattini.ninja. Non lo studio mai, mi dispiace, non studio mai. Va bene, lo sappiamo. Va bene. Io ho una barzelletta, e dai, la dico subito. Cosa fa un cinese in un campo da golf? Nessuno? Abbiamo una risata da mettere come sottofondo? No, non ci abbiamo neanche la risata. Cosa fa un cinese in un campo da golf? Vorrei un rullo di tamburi. Un rullo di tamburi. Volete saperlo? Diccelo. Io sono ansioso, però. Non lo sapete voi? Gioca a golf. Bene, sì, cosa vi aspettavate? Razziste di merda. Dopo questo ti esilio su esiliati.org. Parli tu proprio. Ok, va bene. Dovrebbero starti a cuore queste questioni. Sì, molto. Comunque, non dimentichiamoci che siamo all'Arte del Vizio, che stasera è intitolato Arte del Tizio, sempre per Tonino, che è venuto a esporci dei suoi progetti di musica elettronica. Ora, e qui non ci vuole assolutamente sì, parlare. Ora ci sta un po' scappando, perché vuole farci un po' da sottofondo alle nostre voci, e sinceramente non sappiamo proprio che intanto, cazzo no, dire. Vedo che sei andato su focusjunior.it. Sì, precisamente. Ora, non vogliamo fare pubblicità a Focus Junior, però c'era barzellette brevi e divertenti. Oddio, sono veramente tristi. Quindi, non numero, so se me la sento. Numero uno, la posso dire? Sì. Ok, la dirò in questo tono greve. Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Cosa hanno in comune? Non lo so. Le antenne. Terribile. Barzelletta numero due. No, non è da Focus Junior, cambiamo fonte tra un attimo. Ok, cambiamo fonte. Allora, per tornare alle fonti dei nostri spazi autogestiti, che producono oggetti di informazione autogestiti per chi si voglia interessare a... Assolutamente, per chi sì, si interessa di staccarsi dai soliti mass media, informatori ufficiali o insomma, che ci vogliono distogliere da quella che è la realtà, abbiamo qui le bellissime barzellette a piedi pagina della Ribellula. Possiamo dire che cos'è la Ribellula, lo sappiamo? La Ribellula è un opuscoletto, in questo caso da? Numero 6, ottobre, novembre 2020, dei nostri amiche e amici, direi zona Piemonte. Sì, zona piemontese. Varie. Tra l'altro ringraziamo una delle nostre spettatrici che ci ha suggerito questa rivista, appunto, da cui attingere le nostre fonti. Sì, assolutamente. Grazie sì. Grazie di Esis che ci ascolti da casa. E dietro questa rivista, in fondo, c'è una bellissima rubrica. Che inizieremo a leggere? Forse però dovremmo... Però è un po' serio. Sì, forse dovrei abbassarmi di due ottave in giù, in basso. No dai, vabbè, sempre va siamo bene. In tema di barzellette. Ok, cioè ok, la... ok. Mettimi una musica... Tonino, ci metti una musica felice o devo cambiare tono? No, musica felice. No, ma musica felice. Va bene, signori ascoltatori e ascoltatrici, cari amici da casa che ci ascoltate, la Ribellula, le barzellette. Risate dietro la mascherina. 42632. Qual è la birra preferita dall'uomo di Neanderthal? La Guinness dei primati. Oddio, mi sento chi vuole essere milionario. Gesis si butta via dalle risate, da non credere. Comunque, barzelletta numero 42633. Questo è carino. Scusate, questa è carina. Una cellula va dal barbiere. Mitosi. Non l'avete capita? No. Io l'ho capita. Okay. Io l'ho capita. Scusate. Mitosi. No. L'avete capita voi da casa, no? Mitosi. Vogliamo dire che cos'è? Che la cellula arriva... Ah, ok. La cellula arriva dal barbiere e si chiama mi, particella... nominare mitosi. Che cos'è la vera mitosi? La vera mitosi è... Per fortuna abbiamo un pubblico in studio che ci consente, insomma, ci fa delle domande, perché sennò qua saremmo solamente noi a parlare al vento e, insomma, abbiamo capito che non era molto comprensibile questa battuta. Praticamente la mitosi è quel procedimento in cui una cellula si riproduce dividendosi in due cellule identiche, giusto? Identiche? Cioè due cellule uguali. Cioè se io sono Palmiro e mi sdoppio divento due Palmiri, però due Palmiri completi, non che sono due metà di un Palmiro unico precedente. Intanto ti informo che abbiamo perso un ascoltatore, un'ascoltatrice. Ok, quindi siamo a pochi ascoltatori. Va bene. Poi passiamo a una rubrica informativa di natura scientifica. Il piacere di saperlo. Sono tutte cose abbastanza serie. Se si muore durante una rivolta in carcere, il proprio decesso verrà attribuito a un'overdose di oppiacei, sicuramente non all'intervento dei secondini. Per cui segue questa seconda conseguenza, che la carica virale del coronavirus diminuisce sullo scuolabus per i primi 15 minuti. Infatti lo si può riempire di... Scusate, la mia poca professionalità, di studenti. Dopo 15 minuti però devono scendere tutti perché la carica virale riparte. E poi ripartiamo a rota con un quiz intensissimo che rivolgiamo ai nostri ascoltatori da casa e ai nostri spettatori. Vero o falso? Per aver bloccato un casello dell'autostrada nel 2012 è possibile scontare 2 anni nel 2020? Ci sono anche le risposte alla fine. Ah. No, vi chiedo scusa, io sono veramente uno sciocco. Birichino. Davvero, non riesco a trattenerlo. Do la risposta, vero. Diverse persone li stanno scontando adesso in galera o ai domicili. Ah, è vero. È vero davvero. È vero davvero, mannaggia, al clero. Ok. 32490. La Francia, paese della rivoluzione francese, in nome dei suoi alti ideali, ha consegnato un richiedente asilo curdo al regime di Erdogan in Turchia. Vero. La risposta qual è? La risposta è vera. È accaduto al rifugiato curdo Mehmet Yalcin, che il 16 settembre 2020 è stato consegnato alla Turchia. E vi poniamo l'ultimo quesito con questa esilarante base. Non ti senti trasportato? Sì, io, abbastanza. Io mi sento... Ho perso il controllo, sto perdendo... Già sono esagitato, poi così mi sto... La realtà si allontana sempre di più questi studios. Mi sento un po' come quei personaggi del romanticismo, no? Dei primi romanzi, del romanzo moderno. Tipo il Don Quixote, che è uno dei primi personaggi che inizia a perdere il contatto tra realtà e immaginario. Mi sento un po' così. Comunque, ultimo quesito. Allora sì, Palmiro, io avevo l'altro paio di cuffie che stavo ascoltando lo streaming. Lo streaming, come ti è apparso lo streaming? Mi dispiace, non ti ho ascoltato, ho appena ascoltato la mia voce in differita di 30 secondi. Per cui la realtà si è allontanata ulteriormente dal mio cervello. Per chi è appassionato di sfasamento, ascolti pure in differita radiowombat.net con due pagine aperte. Tornando a noi, ultimo quesito. I diversi processi per associazione sovversiva agli anarchici si sono rivelati il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Falso. Si tratta piuttosto di voli pindarici di magistrati in cerca di improbabili successi. Nulla di nuovo sotto il sole. Perfetto. Continuando la nostra... Non continuiamo nulla, vai. Lasciamo suonare un pottonino che ci... Un secondo, sì. Un secondo dilatato per... Mi sa che abbiamo parlato un po' troppo. Hai ragione. Chiudiamo la bocca. Allora sì, siccome qui è una trasmissione a microfoni aperti, totalmente in balia del destino, Tonino più ne ha, più ne metta. Ci ha fatto un'altra richiesta e qui siamo ad esaudirla, prego Palmi, siamo nelle tue mani. Ok, eccoci, balena. Il termine balena definisce, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, capodoglio, balenottera, megattera e balenide. Il termine è usato in questo senso in espressioni come caccia alla balena, canto delle balene, protezione delle balene. Esso deriva dal latino balena, ballena o balena. Dal greco antico, ve l'ho andato a leggere. Falè dalla stessa radice indoeuropea, dal tedesco val, dall'inglese whale e dallo svedese val. Comportamento. A causa del loro habitat, le balene sono respiratrici coscienti. Fra virgolette. Due puntini devono decidere quando respirare. Riguardo al sonno, tutti i mammiferi dormono e così fanno anche le balene, con l'unica differenza che non possono cadere in stato di incoscienza per periodi troppo lunghi, proprio perché devono essere coscienti per poter respirare. La soluzione a questo problema è ottenuta facendo sì che dorma solo un emisfero per volta del loro cervello, come i delfini, tra l'altro, se qualcuno lo sa. Non lo so, tu sei anche informato però. Anche i delfini, sì, l'ho visto a Riccione, mi ricordo, a 8 anni quando siamo andati a vederli. Ci facevano vedere questi delfini che erano nell'acquario e praticamente passavano per un lato e c'avevano un occhio aperto, dall'altro c'avevano un occhio chiuso. Affascinante. Curioso. La natura è sempre più bella. Sì, è sempre più sconvolgente. Un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Contado. Sì, tra l'altro. E a tutti gli amici dei delfini e delle balene. Così le balene non sono mai completamente addormentate, ma possono comunque riposare secondo i loro bisogni. I cetacei dormono circa 8 ore al giorno. Solamente. Come noi esseri umani. Ma io dormirei di più di 8 ore. Ok. Sulla sommità del dorso si può riconoscere un foro denominato sfiatatoio, che viene utilizzato dal mammifero per espellere i residui idrici e mucosi presenti nell'apparato respiratorio. Posso leggere il paragrafo seguente? Sulla riproduzione. Esatto. Wikipedia ci dice che le femmine di balena danno alla luce normalmente un solo cucciolo lungo dai 5 ai 7 metri. Sono dei placentati. Solamente 5-7 metri. Nella maggior parte delle balene la maturità riproduttiva arriva tardi, tipicamente a 7-10 anni. Questa strategia fornisce a ogni nuovo nato un'alta percentuale di sopravvivenza. Molto alta. Al parto, il piccolo nasce facendo uscire prima la coda, in modo da minimizzare il rischio di affogare. Le madri delle balene nutrono i giovani in modo attivo, spruzzando il latte grasso nelle loro bocche. Oh, posso leggere la filogenesi? Sì, assolutamente. Filogenesi. Mi ispirava così, cioè non so cosa sia il latte grasso. Facciamo una ricerca. Latte grasso. Va bene. Secondo me è latte non parzialmente scremato. Comunque. Credo di sì. Se avete delle risposte, scrivetecele a frittole@gattini.ninja. Ok, la filogenesi, ragazzi, signore e signori. Le balene sono discendenti dei mammiferi che vivevano sulla terraferma. I loro antenati hanno iniziato ad adattarsi alla vita acquatica approssimativamente 50 milioni di anni fa. Bomba! Ieri l'altro. Scusate. Intanto c'è un sound che spacca i culi. Yo, cazzo, termina, spacca i culi. Bellissimo. Insomma, se avete una festa da dare, chiamate Tonino al 346-66-66-66-66-3263. Al modico prezzo di 3.000 euro l'ora. Ok, una recente scoperta del 2009, la notizia è stata pubblicata dalla rivista statunitense Online Plus One Public Library of Science, conferma l'ipotesi che i più antichi antenati dei cetacei attuali avevano origini terrestri. Le balene vivevano a terra per partorire. Venivano a terra? A te i numeri. La balenottera azzurra, Balenoptera musculus, è il più grande tra i cetacei viventi e le sue dimensioni arrivano a 33 metri di lunghezza per 160 tonnellate di peso, l'equivalente di 20-30 elefanti africani adulti. Ok, balene ed esseri umani, conservazione. La maggior parte delle specie di grandi balene è a rischio di estinzione a causa della caccia a cui sono sottoposte. Lo sapevamo. Yo. E siamo anche coscienti della caccia alla balena di cui ora vi narreremo. Durante i secoli le grandi balene sono state cacciate per l'olio, la carne, i fanoni e l'ambra grigia. Cosa sono i fanoni? Piccolo focus. Oh no. Vabbè. I fanoni sono delle lamine presenti nella bocca di alcune specie di balena al posto dei denti. Sono usati come filtro per espellere l'acqua dalla bocca, trattenendo i piccoli animali di cui si nutrono. Insomma, sono i denti di balena. Sono i famosi denti di balena. Fanoni. E l'ambra grigia. L'ambra grigia è una sostanza fortemente odorosa prodotta dall'intestino dei capodogli ed è utilizzata per la realizzazione di profumi. Ecco perché... Tutto torna. Ho capito metà di... della tua vita. No, penso di aver capito Fight Club. Non so se hai mai letto Fight Club. Non l'ho letto, ho visto, l'hai il film, visto? Ho visto il film. Hai visto la scena dei profumi, della grassona a cui vengono rotte tutte le boccette di profumo derivanti dalle balene? Ah, sì, ok. Ora si spiega tutto. Pensare. Comunque, a parte le cose serie, torniamo a noi. Intanto Tonino qua pompa sempre di più. Balene, balene e musica elettronica è il mix di stasera. Fino alla metà del XX secolo, la caccia alla balena ha condotto molte popolazioni di balena alle quasi estinzioni. La Commissione Internazionale di Caccia alla Balena ha introdotto una moratoria sulla caccia alla balena nel 1986. Per vari motivi, alcune eccezioni a questa moratoria esistono. Le nazioni che, nonostante i limiti imposti dalla Commissione Internazionale per la caccia alle balene, praticano la caccia sono la Norvegia, l'Islanda e il Giappone. Oltre a queste, ci sono anche le comunità aborigene della Siberia, dell'Alaska e del Canada del Nord. A te il prossimo paragrafo, reverendo. Sonar e test sismici. Gli ecologi lungamente hanno sostenuto che alcuni cetacei, comprese le balene, sono messi in pericolo dai sonar usati nei mezzi navali più moderni. Nel 2003, scienziati britannici e spagnoli hanno suggerito, con vari articoli pubblicati sulla rivista Nature, che i sonar possono causare spiaggiamenti e causare embolie gassose. Gli spiaggiamenti di balene sono diffusi tra varie specie, maggiormente tra quelle che usano un sistema in ecolocazione. Per studiare il fenomeno, sono state prese in considerazione tutte le registrazioni di spiaggiamenti degli ultimi 1000 anni, riportate in scritti religiosi e nelle indagini scientifiche, per cercare di valutare l'incidenza del sonar in questo fenomeno. Molto interessante. Sì, le balene... Non avevi idea. E poi abbiamo miti, cultura di massa, miti e leggende. Ma c'era un altro pezzettino. Ah, volevi leggere anche, lo vuoi leggere te? Scusami reverendo, non volevo essere... No, diceva solo che a seguito di un crescente interesse pubblico, l'ordinamento giudiziario degli Stati Uniti ha ordinato al reparto della difesa degli Stati Uniti di limitare rigorosamente l'uso del sonar a bassa frequenza durante i periodi di pace. Giusto per salvaguardare le balene, immagino. Tentativi ovvio, per ottenere ovvio. Simili risultati sulle navi inglesi, effettuati in Gran Bretagna dalla Società per la Conservazione delle Balene e dei Delfini, non hanno per ora ottenuto esiti positivi. Il Parlamento europeo, d'altra parte, ha chiesto ai membri dell'UE di limitare l'uso di sistemi sonar di una certa potenza fino a quando non si saranno fatti studi sugli impatti ambientali di tali tecnologie. Inoltre, i conservazionisti sono preoccupati anche che i test sismici usati per rilevare giacimenti di petrolio e di gas sottomarini possono danneggiare le capacità di ecolocazione di udito delle balene. Suggeriscono anche che le modifiche ai campi magnetici naturali causate dai test possono essere a loro volta responsabili degli spiaggiamenti. Insomma, sappiamo che le balene sono molto sensibili con la loro, sì, con la loro testona. Una testona di ecolocazione, tra l'altro. Se, non lo so, io sono rimasto un po'. Insomma, cercate di limitare l'uso di apparecchi che sfruttano i campi elettromagnetici. Soprattutto se siete in mare e tra siete l'altro. In zona di balene. Se siete a fare una crociera, rilassatevi e non usate lo smartphone. E rieccoci qui in studio. Tonino ci sta facendo ballare, ci sta facendo tutte le membra. Tonino ci sta facendo sballare. Assolutamente. Giusto. Ok, torniamo a noi per concludere. Scusa, reverendo, sto clippando. No, forse. figurati, non sarei né il primo né l'ultimo. Torniamo a noi e concludiamo questo grande capitolo delle balene con miti e leggende. Io e il reverendo faremo a scambio di passi. In che senso? Che miti e leggende riguarda... Ci sono dei passi della Bibbia. Ah, bello. Dei passi molto interessanti della Bibbia. Sì, la allora... Bibbia sembra accennare alle balene per 5 volte. 5 volte? Come sapete, 5 è un numero primo, è il multiplo di tantissimi numeri che sono multipli di 5. E 5 è quasi il numero della perfezione, quasi. Comunque. Sì, 5 è il pentagono, 5 è la stella. 5 sono... Le dita dell'ano. Sì, le dita e le dita del piede. 5 sono i sensi. Ma non è vero, questa è una bufala. Ok. Questa è una grande brutta storia. Passo numero 1, Genesi 1:21. E Dio creò le grandi balene, mostri marini. Ma cioè ci sono le parentesi tonde nella Bibbia? No, mostri marini e fra parentesi tonde. Non lo so, forse è una rivisitazione. Insomma, se sapete... Secondo me è un'interpretazione di teologi. Dico, la gente molto acculturata su, su quelle cose, su genere fantasy del 300 avanti Cristo. Ah, nel caso sappiate se nella Bibbia ci sono o meno le parentesi tonde, fatecelo sapere come al solito a frittole@gattini.ninja. Mandateci una mail oppure scriveteci sul cellulare di Palmiro a 346-666-666. Dove sei stai? 72. E dove sei stai? Il mio numero ha 11 numeri, non 10. Esatto. Allora, io leggo il secondo passo della Bibbia ed è Giobbe 7:12. Cioè il 7 dicembre. Vabbè. E sono io forse il mare oppure una balena, fra parentesi, mostro marino. Perché tu mi metta accanto una guardia? Punto di domanda. Ezechiele 32:2. Tu sei come un giovane leone dalle nazioni e tu sei come una balena nel mare. Non c'è scritto mostro marino fra parentesi, almeno in questo. Non ci sono parentesi. E poi c'è Giona 2:1-3. Canto 2 verso 1 e 3. Grazie, come ci sai, Palmi, mi salvi sempre. Ma il Signore dispose che una grossa balena, fra parentesi pesce, inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Venne dal ventre della balena, fra parentesi pesce. Giona pregò il Signore suo Dio e disse, parentesi, no, sono le virgolette, le e qui finisce virgolette graffe chiuse. La citazione, questo è un finale con come si chiama, un finale aperto, ci lascia all'immaginazione. Sì, potrebbe essere. Quindi, sì. Signore e signori, la prova che Dio non ha finito di costruire tutto. Matteo 12:40. Per come Giona erano 3 giorni e 3 notti nella pancia della balena, e qui non ci sono le parentesi che dicono pesce, così il figlio dell'uomo sarà di 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Peso, molto peso. Questo è un racconto horror. Comunque, vorremmo, cari ascoltatori, ci teniamo a concludere con quest'ultimo paragrafino che dice: tutte queste citazioni sono desunte dalla versione protestante di Re Giacomo, che traduce con balena il termine greco, ve l'ho andata a leggere. Kitos. Grazie. Reverendo, sei veramente acculturato, si vede che hai il diploma. Nei testi biblici, tuttavia, non c'è evidenza che questi animali del mare fossero effettivamente balene. Tant'è vero, cioè c'è scritto tant'è vero. Tanta apostrofo e vero. Tant'è vero che il termine ebraico, per esempio nel libro di Giona, è Dag Gadol, letteralmente grande pesce. Dag Gadol. Ok. Potrebbe quasi essere una... Vogliamo avvertire Tonino che abbiamo finito le nostre voci. A me Dag Gadol ricorda qualcosa in dialetto da dove viene Tonino. Dag Gadol. No, Tonino, non ti suscita qualcosa di Dag Gadol? È troppo impegnato, Palmi. è troppo impegnato a suonare. Allora, Wikipedia ci dice anche che, vabbè, c'è il romanzo fantascientifico di Luciano Samosata, no, storia vera. Samosata, mi sa, forse, sai. Non ci ha messo l'accento, non lo posso sapere. E sì, l'autore, il gruppo di compagni sono inghiottiti da una balena. Scusami, ti interrompo, ma Stream Punk ci sta mi sta dicendo che stiamo perdendo due ascoltatrici, due ascoltatori. Ok, il grafico cala a picco. Però vabbè, perché non parlare di Moby Dick dopo? No, ma mi hai ascoltato, scusa, no, ti stavo parlando col cuore. Va bene, va bene. Era affranto. Va bene, niente. Allora stiamo zitti per altri due minuti. Va. Ah, facciamo l'ultima richiesta di Tonino, così sappiamo come ripartire. Va bene, va bene. Di cosa vuoi parlare dopo? Abbiamo finito le balene. Le nostre conoscenze wikipediane sulle balene sono finite. Benvenuto Tonino, dici. Buonasera. Ciao, come stai? Come sta andando il set? Tutto a posto? Allora, il set qua ci stiamo divertendo. Ok. Cosa si racconta dietro le quinte sul palco? Che dicono? Aspetta che mi avvicino, che qua il sound è troppo forte. Come vanno le macchine? Come va la musica? La gente è eccitata stasera, la vedo. La vedi proprio? Sì, la vedo. Ma è pieno qui oggi in studio. Pullula. Allora, io pensavo che secondo me tra un po' si alza il BPM. Va bene, noi siamo qui per questo, direi. Penso che il BPM, superati un determinato BPM. Sapete cos'è il BPM, ragazzi? Tetto di BPM. Battiti per minuto. Chiaro. Superato un determinato BPM, scatta una rotella in testa per il quale bisogna per forza agitare le mani. Usando le mani messe a L, okay, cioè col pollice e l'indice. I nostri ascoltatori non lo possono vedere, sì, ma lo possiamo spiegare. Proviamo a descriverlo. Allora c'è praticamente una rotazione trigonometrica del polso della mano, che indica una L, che sia a destra o sinistra. Aspetta, appoggio il microfono. Per la quale la mano che simboleggia questa L compie questa traslazione, perché è una traslazione effettivamente, una traslazione, e il dorso della mano ruota, trasla fino a rendersi perpendicolare al piano dell'asse terrestre. Sì, l'importante è agitare. Ok. Come se dovesse agitare qualcosa, uno shaker. Okay. Proviamo. Comunque questa mano. Comunque, se volete possiamo fare delle scommesse. Ok. Va bene, siamo. Qual è questo BPM? BPM 220, perché è molto biblico. No, quanto? Molto 220? Cioè, superati 220 BPM? Secondo me si arriva tipo a quel genere che si chiama tipo techno fresh hardcore. E l'high tech, zio. Tipo 180, 185. Comunque non sappiamo qual è la domanda ancora. Tra l'altro, no, la domanda. Tu hai detto c'è un tetto di BPM. No, superato quello, qual è il tetto? Cioè, secondo voi, superate quale? Si può iniziare a agitare, a ruotare, a sentirsi stupidi. Perché ricordiamo gli ascoltatori che è la traslazione del dorso della mano. Perché poi c'è anche il movimento del bacino, no? Che si aggiunge. Ah, ok, è una combo. Ah, quindi questo è tutto riconducibile. Datemi due BPM. Ma okay. Ve ne faccio una con un BPM e uno con l'altro. Vai, io voglio tipo roba come Franchino a 180 BPM. 180. Io volevo il 220 dall'inizio perché è biblico. Però non so, cioè forse è troppo. Ma forse è troppo. Intanto io partirei da un bel 60, il battito cardiaco. Così riusciamo un attimo a sincronizzare. Il battito cardiaco, allora, di chi non fuma. Vi faccio 60 o 120? 4 barre. Oh. 4 a 60. Barre. Facci 4 barre a 60. E qualcuno ci deve fare un freestyle, però qui. Ok, non dai, bloccare, dimmi. Forse lo troviamo qualcuno. Ok, va bene. Faccio intanto 4 barre a 60, poi faccio 4 barre a 185 e 4 barre 220. 180, va bene anche 180. Ok, cari ascoltatori e ascoltatrici, se volete mandarci i vostri BPM preferiti potete scriverci a frittole@gattini.ninja. E ricordiamo che tutti i gesti che il nostro DJ Tonino ha consigliato di fare, tra i quali il movimento del bacino e traslazione della mano, sono riconducibili al fenomeno di ballare. Quindi casomai vorreste ballare, vi consigliamo vivamente di ballare quando i BPM si vorranno alzare. In sostituzione andare su Wikipedia, cercare la parola ballo e insomma noi ve la leggeremo a breve. E chiarire la vostra definizione di ballo. Sì, a voi Tonino con il miscuglio, il mix dei BPM. microfono già acceso, uno è qua, grazie dell'ospitalità, regà. Fantastici, Frittle è veramente un paradiso. La base in sviluppo, qua si fa gruppo, è sempre per andare un po' più in là, città e non si sa come viene, sa. Il ritmo ti attraversa il corpo e tu sì, ti senti nascosto anche in mezzo a tanta gente, non ci sono differenze, eppure sei qua come un altro che sta là, un po' più in qua. Il beat parte, io mi scarto da solo come un regalo che cade a pezzi mentre cade a pezzi, perché viene scartato da un ragazzo che sta a pezzi. E no, non si parla di un pezzo, ma solamente di un testo che tanto non c'ha niente da dire, perché non ha nessuna persona da confessare. E tu lo sai che non siamo qui per stare male o bene, solamente per... sì, man, per stare, yeah. Au! Qui Tonino che parla. Questi qua erano i 60 bpm. Ora vi faccio un intermedio perché è davvero esagerato passare da uno all'altro, cioè sentite, faccio ora, beat trap, cazzo. Io ora alzando il bpm succedono tutte ste cose, sentite. Yo, passiamo a un bpm di 120, 87, ci è stato consigliato 85, facciamo 85, 185, 85, 85, ok, 85. Io vedo già che nei miei polsi si inizia a produrre, sì, qualcosa. Sì, sì, sì. Quel fenomeno che abbiamo appena descritto, per il quale traslazione della mano e bacino si coordinano e iniziano a creare questo strano fenomeno. Per l'appunto. Sì, per l'appunto. Non sono mica unto, ma solamente sporco d'olio, perché lavoro sodo, eppure non sono nuovo e non mi frigino, perché sono in frittoleia, eppure non si sa dove è questo posto qua. Man, passa anche tu un po', che tanto lo so che lo vuoi anche te un po' d'olio, man. Quando il beat parte, la testa si apre in tre parti, perché non ce n'è abbastanza pari per tutti. E tu mi rispondi come se fosse una gara di rutti, ma no man, siamo faccia a faccia, ci parliamo serio per un posto in questa traccia di un mondo che non ha nessuna essenza se non quella di un'anima marcia. Oh oh, i bpm salgono, il ritmo si fa sentire. Tonino in console, che spettacolo. Un'aria scoppiettante. Qui siamo sì degli eredi di Dante, non come toscano, ma come comunista e populista di un mondo sano. E non lo so, nessuna definizione al caso, ma solamente il caso lascia caso a se stesso. Perché sì, non ha nessun pregresso di esistenza in questa poca esperienza che ti porto. E sì, lo sai, ma no, una sirena che squilla. È il mio telefono che brilla. E in questa festa non c'è spazio per tutti quanti, no, perché non siamo mica all'aperto. Eppure tutti quanti insieme a fare mischia. Sì, man, come il vischio che si invischia. Non lo so, ma non c'è nessun immischiamento se non sento la percussione dentro. We'll be right back. come la vela di una nave che si imbarca a largo e non sa quanto stacca dall'altro porto che l'aspetta arrivare. Come la buonasera ad un concerto di non so un tipo che chiamerò Natale. Perché il regalo più bello è essere qua, in un mondo in cui non c'è nessuna onestà, ma solamente tanta, tanta, tanta, tanta esperienza ad affrontare il male. E stare in diretta come su di una nave a navigare. Vorrei tanto sapere una storia da accostare alla tua vita, perché non sai se ce n'è nessuna possibilità. Non sono io a narrare, ma è il suono ad orientare. Tonino sta partendo e i BPM stanno per alzarsi, tutti pronti ad essere ancora più ubriachi ad ubriacarsi. BPM siamo, Tonino! Allora, qua siamo a 85 BPM. Ok. E se volete saperlo, li stiamo usando in ottavi. In ottavi. Interessante. È interessante, perché se sapete leggere uno spartito, diteci che cos'è, se volete scriverci cos'è un ottavo. Sono gli ottavi. Cosa sono gli ottavi? Ora saliamo drasticamente. Oh. Ok, qui l'atmosfera cambia. Lo sentite qua, cioè ve lo immaginate all'impianto quando succedono queste cose. Di solito si prende aria, si appoggia il drink, è un po' che non si appoggia un drink. Quindi qua adesso siamo, quanto siamo qui ora? A 85, 180. Se non potete ora, vederlo da casa, noi magari siamo tutti in piedi, cazzo. E qui c'è Tonino che ci fa volare. Ora diciamo che sentite voi. Microfoni che cadono. La tensione è sempre più scura. L'aura delle emozioni si dissolve. E noi qui, caduti. Ma ce l'hai l'8B? Ok, reverendo, allora qui i BPM salgono, la tensione si intensifica e forse ho sentito che volevi leggere un articolo su Hardcorella, una delle ultime notizie importantissime di Hardcorella. Ma forse siamo un po' troppo seri stasera. Sì, allora su Hardcorella vorrei qualcosa di meglio. Vorrei parlare del ballo. Ah, ok, parliamo del ballo. Intanto vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori chi è che ci ha fatto questo spettacolare freestyle insieme a, a Tonino. Assolutamente. Come si chiama, sì, il nostro, grazie, freestyle, il nostro MC? Grazie Uno. Grazie, ah, grazie Uno, voi, grazie Uno, benvenuto agli Studios di Frittole, grande, grandissimo freestyle. Da tanto tempo che ti vedevamo bazzicare qua intorno, e non alla avevi fine mai preso ci sei parola. Arrivato. Grande, grande, hai, grande, raggiun- grande, hai raggiunto questo alto posto. Io, io. Grande, ti ringrazio perché hai invitato tutti quanti al posto nostro a venire a raggiungerci. E io sono, sono d'accordo. Se non avete niente da fare, domenica sera prendete il battello e venite a Frittole. Sì, sì, sì. Perché noi vogliamo fare delle, delle puntate live con all'Arte del Vizio domenica sera. Ogni due domeniche del mese facciamo l'Arte del Vizio live con tanto di spettatori e ascoltatori live. Oltre ad essere l'arte del tizio, è il tizio artista. È il tizio artista. Vorrei sottolineare. L'arte del tizio ospita l'arte il tizio del tizio artista. Artista. È una... Un'analogia interessante questa, reverendo. Perdona i nostri cuori peccatori. Non fa niente, non fa niente, vi perdono. Solo perché sto vedendo. Ok, ragazzi, qui, Tonino che inizia, qui c'è Tonino inizia che inizia a spingere. E merda malata li sta facendo un succhiotto. E spero merda... sostenete anche voi il qui è... con i BPM che l'aria scattano pesante, e si alzano. Anche i battiti interni nostri si fanno sempre più intensi. Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, Tonino ci chiedeva appunto se secondo voi è questa la velocità giusta per questo tipo di musica. E se sì, se no, scrivetelo giù su frittole@gattini.ninja, la nostra mail. Siamo ansiosi di ricevere la vostra risposta, e se volete ancora esprimere la preferenza sui vostri BPM, se questa è ancora la velocità giusta o se volete aumentare, se volete che si aumenti. Tornando a noi alla da noi, vorrei che Tonino ci desse la sua personale risposta. Tonino ora non ci sta cagando, appena finisce di mettere questi ride. Ok, yo. Aspetta, sei tamarro. Ci dice di aspettare. E noi aspettiamo. Tonino, con me ancora i microfoni. Allora, ragazzi, secondo voi questa è la velocità di 180. Cosa ne pensate? Io mi sento molto a mio agio in questo momento. Sì, anche ma io. Le dita si agitano? Sì, personalmente sì. Personalmente non riesco a star fermo. Sì, anche io. Ok. Io sono fremo. Forse però, non lo so. Cioè, mi sento a mio agio, potrei ascoltare questa musica e cucinare gli spaghetti integrali. È incredibile. Ma poi come sono fatti questi spaghetti integrali? Non lo so, secondo me sono di origine, non lo so, sicuramente acquistati da un gas. Ma secondo me, allora, forse la mia risposta è che questo non è il mio BPM, non è la mia soglia di BPM ideale. Forse ci starebbe ancora. E quale alto. Sarebbe? Più alto, dici? Più alto. Okay. Forse il, come lo definivi tu, reverendo, il 220, il numero biblico. Numero biblico. Va bene, allora. Il numero biblico. Facciamo che provo alla velocità di 220. Va bene, grazie. Per fare questo, ragazzi, avrò bisogno del silenzio. Scusatemi, so che in radio bisogna parlare. No. Lasciamo niente. Libero spazio. Almeno testiamo il ronzio di fondo, che non se fa no, mai male. Se no. No, va bene. Reverendo, avresti un pezzo da mettermi? Abbiamo Madame Baby, non so. Ma anche no. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Odio l'estate, siamo in inverno e qui il freddo cala a 220 bpm. Punge duro. Punge fino al cuore. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, Tonino a 220 bpm. inizia a non essere più a mio agio. Agio nel disagio. Lo so, Palmiro, che dici? Mi sento molto confortato, sì. Oh, oh. Oddio. Uno con le sue acrobazie. Allora, Tonino ci ha promesso 10 minuti di questa, di questo otto volante, noi glieli chiediamo tutti, dal primo all'ultimo. Vi trovate nella dimensione stellare. Sulla Millennium Falcon stiamo viaggiando a velocità della luce. Benvenuti sullo shuttle. Godetevi il viaggio. Allacciate le cinture. Grazie. Allora, Tonino, suonano le mani ufficialmente. Sono solo le 9.03 di sera. Siete sempre su Radio Wombat, radiowombat.net, 13.59 AM. Vabbè, questa, vabbè, facciamo finta di niente. Ok, è andata così. Sì, è andata un po' così, ma... è saltato tutto in un secondo. E i nostri tecnici hanno salvato la situazione. Purtroppo è rientrata la bobina su Wombat, mi dispiace per voi, una bobina... che lascia un po' a desiderare. Perdonateci, cari amici, ascoltatori e ascoltatrici da casa. E comunque va bene, dai, tutto è bene, quel che finisce. Sì, ci siamo lasciati sui 220 bpm, speriamo di non avervi traumatizzato troppo. Ok. Allora, mentre dicevi Palmi, passiamo all'ultimo argomento della serata, che durerà un pochino, perché ragazzi questo è un cazzo di argomento, e dire che leggeremo solamente alcune l'introduzione e alcune caratteristiche introduttive. Intanto salutiamo Uno. Ciao Uno, buona serata, grazie ancora per la collaborazione, la partecipazione, l'invito agli studi di Frittole, e vi parleremo mentre Denone si appresta chitarra acustica con il suo accordo, il do, la sua accordatura in do aperto. Vi introdurremo i transistor. Come sapete, il transistor o transistore è un dispositivo a semiconduttore largamente usato sia nell'elettronica analogica sia nell'elettronica digitale. Il termine sottintendendo radio a transistor è stato spesso utilizzato nel linguaggio comune anche per identificare le piccole radio portatili, che furono la prima applicazione di questi dispositivi a raggiungere il mercato di massa, più o meno negli anni 50 del XX secolo. Fisico e ingegnere Julius Edgar Lilienfeld progettò il primo transistor in Canada nel 1925, descrivendo un dispositivo simile all'attuale transistor ad effetto di campo. Tuttavia, Lilienfeld non pubblicò alcuna ricerca a tal proposito, e nel 1934 l'inventore tedesco Oscar Heil brevettò un dispositivo molto simile. Il primo transistor era realizzato con due elettrodi, le cui punte molto sottili e distanti tra loro alcuni centesimi di millimetro, per la precisione da 127 a 50 micron, erano premute sulla superficie di una piastrina di un cristallo di germanio molto puro, policristallino e di tipo N. La tecnica del contatto puntiforme era già nota ed utilizzata per la costruzione dei diodi rivelatori. Provvisoriamente, dato che il transistor funzionava in modo analogo ad un triodo, venne chiamato triodo a stato solido. Il nome definitivo deriva dall'unione dei termini trans con transens e resistor. Vuoi sapere cos'è un triodo? No, immagino, ora non volevo leggerlo, però so che è composto, diciamo, da una base, un collettore e un emettitore, e ci sono alla base, per andare verso l'emettitore e il collettore, ci sono due diodi posti a seconda del drogaggio del transistor. Però non volevo approfondire questa parte, perché sennò non finiamo mai più. Insomma, quindi chiamiamo a raccolta gli esperti del drogaggio. Ci servirebbe qualcuno tipo i ragazzi di Coccoli al Silicio, forse loro saprebbero spiegarci bene. Un salutone ai ragazzi di Coccoli al Silicio. Comunque, il primo prototipo funzionante fu realizzato nel mese di dicembre del 1947 da due ricercatori, non dirò chi sono, non diciamo. Era questo il transistor a contatti puntiforme, tra parentesi, tonde a punte. Mentre si deve a William Shockley l'ideazione nel gennaio 1948 e la formulazione nella primavera dell'anno successivo della teoria del transistor a giunzione, chiamato inizialmente dallo stesso Shockley nel suo diario di laboratorio Sandwich Transistor. Nel 1956 i tre ricercatori furono insigniti del premio Nobel per la fisica con la motivazione per le ricerche sui semiconduttori e per la scoperta dell'effetto transistor. Già verso la fine degli anni 50 la produzione di transistor si orientò verso l'utilizzo del silicio come elemento semiconduttore e negli anni 70 il transistor dal germanio divenne obsoleto. I tipi di contenitori del dispositivo si sono moltiplicati e negli anni sono stati usati materiali come la ceramica, il metallo, la plastica o assemblaggi misti. Negli anni 60 venne usato anche il vetro. Il produttore europeo Philips racchiudeva i suoi dispositivi di piccola potenza, ad esempio quelli siglati OC70 e OC71, in un'ampollina cilindrica in vetro verniciata in nero, riempita di grasso al silicone. Nel caso il dispositivo avesse dissipazione maggiore, come l'OC72, il dispositivo era ricoperto semplicemente da un cappuccio in alluminio. Avendo refori identici, reofori, cosa sono i reofori, Palmiro? Dice. No, lo leggiamo subito. Un reoforo in elettronica indica il filo conduttore terminale dei componenti elettrici ed elettronici previsti per essere saldati sul circuito stampato con la tecnologia through hole, ovvero infilando i due o più reofori del componente nei fori previsti sullo stampato e saldandoli con una lega a base di stagno. Praticamente fa riferimento a le astine, le asticelle? Sì, ai fori nella PCB in cui vengono inseriti i componenti, come resistori o vari. I fori della PCB sono i reofori, ok. Sì, dovrebbero essere quello, appunto. Reo dal greco colpevole, scherzo. Comunque sono quelli, sì, le astine dei componenti e infilate nei fori della PCB. Questi foretti. Il collettore era contraddistinto da un puntino di vernice rossa scura. Nel tempo molti tipi di contenitori sono andati in disuso a favore di geometrie più efficienti nello smaltimento del calore prodotto. I dispositivi di potenza attuali per bassa frequenza, compresi alcuni tipi di dioidi e di IC, vengono assemblati nel contenitore standard definito TO3, provvisto di due flange forate adatte al fissaggio sul dissipatore tramite una coppia di viti. Realizzato in acciaio, rame o alluminio, con temperatura ambiente di 25 gradi, è in grado di trasferire al dissipatore 300 watt di potenza termica generata dal DIE. Un DIE in elettronica digitale è la sottile piastrina di materiale semiconduttore sulla quale è stato realizzato il circuito elettronico del circuito integrato. Con riguardo al movimento delle cariche elettriche all'interno del dispositivo, i transistor sono indicati come transistor bipolari, in cui sia elettroni sia lacune contribuiscono al passaggio della corrente, ovvero qua fa riferimento all'effetto valanga. E infatti, per specificarvi lacune, in elettronica la lacuna elettronica, chiamata anche semplicemente lacuna, è insieme all'elettrone uno dei portatori di carica che contribuiscono al passaggio di corrente elettrica nei semiconduttori. La lacuna, sì. Okay. Sì, quella che poi vanno a creare l'effetto di campo di valanga, comunque lo andremo a dire. Ma salutiamo ancora i nostri amici di Coccoli al Silicio e nella prossima puntata ci diranno se stiamo dicendo delle cazzate. Comunque, contribuiscono al passaggio della corrente. Sia il transistor a contatti puntiformi sia quello a giunzione sono transistor di tipo bipolare, il tipo a contatti puntiformi. L'importanza storica per essere stato il primo realizzato e a trovare pratica applicazione, seppure limitatamente. Diventò presto obsoleto per essere soppiantato da quello a giunzione, più stabile e meno rumoroso. In seguito furono creati altri tipi di transistor in cui il passaggio di corrente avveniva grazie ad un solo tipo di portatori di carica. Questi dispositivi sono i transistor ad effetto di campo. Signore e signori, l'effetto di campo, per chi volesse saperlo, l'elettronica, il transistor ad effetto di campo, abbreviato in FET, dall'inglese Field Effect Transistor, è un tipo di transistor largamente usato nel campo dell'elettronica digitale, diffuso in maniera minore dell'elettronica analogica. Da qui anche il componente famoso MOS e poi il MOSFET. Il MOSFET. Il MOSFET, il nostro amico MOSFET. Nel tempo entrambi hanno dato origine a molti tipi diversi di transistor, usati per gli scopi più vari. Lo strumento di misura utilizzato per la verifica, la caratterizzazione dei molteplici parametri dei transistor, nonché dei diodi, e il curve tracer, traccia curve, termine dato allo strumento in relazione ai segnali elettrici visualizzati sotto forma di grafico somigliante a molteplici curve. L'aspetto è simile ad un oscilloscopio. Questo tipo di strumento è storicamente prodotto dalla società Tektronix. Descrizione. Il transistor è composto da un materiale semiconduttore. Signore e signori, Tonino, un grande applauso, un grande applauso. Fanno un'altra, Tonino, fanno un'altra. grazie ragazzi. Signori, qui Tonino, la cazzo di chitarra acustica che ha appena spaccato il culo, cazzo. Bravo Tonino, grande. Veramente, grazie. Grande, veramente dei pezzi molto belli, molto belli. Grazie, grazie. Mi ha aperto il cuore. Mi piace un casino questa accordatura. In do? In do aperto? In do maggiore. In do maggiore. Non so più che cazzo dire, sono esterefatto. No, davvero, davvero. A 10 minuti della chiusura... 21:21, buon San Valentino, 14 febbraio. Ah, siamo... cazzo, è vero. Siamo ancora qua. Abbiamo un'ultima richiesta da parte del nostro ospite. Siamo stati onorati di averti qua. Sì, grazie Tonino per essere passato all'Arte del Vizio e dando il titolo. È stato un grandissimo piacere aver partecipato a questa serata. Scusate se non ho parlato tanto, ma non è nelle mie abitudini. È impegnato a farci godere con la tua musica. Esatto, hai parlato in altri modi, ti ringraziamo. Sì. Grazie a tutti. Ci vediamo presto, vi lascio prossimamente, alla prossima puntata. Io direi che vi lasciamo con un ultimo brano, chiudiamo un po' prima, ma va bene, dai. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Signore e signori, vi salutiamo qui all'Arte del Vizio, dall'Arte del Vizio è tutto, un ciaone da Palmiro. E dal Reverendio. E da Tonino. Ciao a tutti, vi lasciamo con Piero Ciampi, adios. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.